tell you the fall. I hate snakes like Indiana Jones. E che mo, un'altra radio, un'altra radio, un'altra radio, un'altra radio. Un'altra radio, radio, radio, radio, radio. Roma. Roma. Roma. È una radio che potrebbe avere effetti indesiderati e anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Io sono Gasperina di Carbonari. Bene, bene, bene, bene. Ragazzi, siete atterrati nel mondo dell'Artra Radio Roma e siete atterrati su un mondo musicale veramente scatenante. Oggi voglio vedervi saltare sulle sedie. Chi vi parla è il vostro amico Mister Gasperino. E i brani che andiamo a sentire, siccome sono molteplici, li andrò a elencare velocemente. I primi tre gruppi che andiamo a sentire sono... recensiti ultimamente da un'altra radio Roma, venite a buttarci un occhio. Sulla colonna di destra troverete le recensioni di un'altra radio Roma. Loro sono una band di Firenze e ci propongono un rock nudo, così amano definirlo. Sono gli Atomo 2.0 e ci presentano un post-punk. Il brano che ho scelto per voi si chiama Artificiale Superficiale, caricato su Jamendo. Il secondo artista è Stan Coulet, francese, tratto da Dogmazic, il brano è Reality TV. Il terzo gruppo si chiama Not The People, scovato su Free Music Archive da un'etichetta di California, la SS Records, che ci propone un buon rock musicale, tant'è vero che lo troveremo anche più avanti, ci presentano Miles High. A voi auguro buon ascolto! Buon ascolto! Buon ascolto! Un'altra radio Roma. Dalla terra nasce una vita e dalla terra nascono i... Se sulle terre si vive, si muore, in questa terra si sogna l'amore. Artificiale, superficiale, artificiale, superficiale. Donna di luce, plasma i miei colori, soddisfazione, partecipazione. Scorre la mano, bella storia sei, compra la voce, parla pure con me. Artificiale, superficiale, artificiale, superficiale. superficiale. Starac, vivez, chantez avec Cofidis. Vivez la Star Academy avec style. Vibrez au son de la Star Academy avec les Walkman vidéo de Sony. Je suis sûr qu'elle était maquillée comme un pot de peinture. Ouais. Que ça n'allait pas avec ses chaussures. Ouais. Imprévisible, ouais. Compréhensible. Ouais. Elle vient pour moi. Je vous félicite. J'en vais. Merci. Non, mais c'est vrai, félicitations. Je vous félicite. Merci. Franchement, c'est super quoi. Cauchemar, télévisé, haïtité, cerveau, désorienté, haïtité, déchiré. termine di questo podcast, se avrete la pazienza e la voglia di attendere, troverete una piacevole sorpresa. Insomma, un ospite ha voluto regalarci la sua voce. La carne al fuoco quest'oggi è veramente, veramente tanta. Quindi direi di andare avanti e la seconda tornata musicale che vi vado a presentare la inizieremo con i The Union Frigo, che sono un gruppo di Padova scaricati da Dogma Zik con etichetta Test Tube. Il brano si intitola Jesus and Judah. Il secondo gruppo sono i Cronofobia. Ci presentano un rock alternativo, sono di Brescia, suonano insieme dal 2008 e l'album è uscito nell'aprile del 2010 dal titolo L'Idolo. Lo troverete su Giamendo. Il brano che ci ascolteremo si intitola Sanguino, Sanguino ovunque. Ovunque. Un'altra radio. Roma. Ma mettiamo che suo figlio... Cioè mettiamo che io e suo figlio... Che come gli ammazzo? Ma... Io non ci ho ancora pensato. Massimiliano? No, per carità, quello Massimiliano. No, guarda, gli ammamma... Cioè... Se si decide che suo figlio è... Cioè, capo... Cioè, io avevo pensato... Ugo. Come tuo padre? Sì, ma no per mio padre, cioè a me non mi importa proprio questa cosa. No, è proprio perché così io Aglione viene più educato. Ma perché Massimiliano? Massimiliano viene scostumato. Cioè, si, lo so, è proprio un uomo che è scostumato. Perché Massimiliano, i sente sempre, per esempio Massimiliano sta vicino a mamma, su Aglione, e si muove perché è a qualche parte. Ah, mamma, prima che lo chiama, tu Massimiliano! Aglione già gli sta addosso, che sta facendo, non ubbidiscono perché è troppo lungo. Invece Ugo... Lo chiamo Ugo, come sta vicino alla mamma, questo sta per muovere, Ugo, Ugo non aveva nemmeno tempo, capito? Può fare un passo, però Ugo ha dato una per forza, perché lo sento un nome. Al massimo proprio, ecco, volendo, mi chiama Ciro, è più lunga, ma proprio per non lo fa venire troppo represa, cioè, però Ciro ha un tempo per pigliare un po' l'aria. Jesus Christ is driving a car. I won't be forgotten, but I don't care. Allora, che cosa ne dite della musica che state ascoltando? Ricordate che vi trovate su un'altra Radio Roma e quindi, siccome, come dicevo prima, abbiamo veramente, veramente molti brani da ascoltare di questo genere, vado avanti con un gruppo romano che ci presenta un rock tra gli anni 70-90, quindi è un po' ricordare certi momenti per i più attempati come me. Vi presento gli Emerson con il brano Artificial Love, li trovate su Jamendo. Il gruppo successivo si chiamano i Dei Miei Dei, anche essi sono di Roma, ci presentano un rock alternativo veramente veramente gustoso, suonano insieme dal 2008, li ho scovati su Jamendo e ci andiamo ad ascoltare Strano L'Odore. Il terzo gruppo di questa tornata musicale hanno già avuto modo di esibirsi su un nostro podcast, esattamente quello di DJ Kofu. Il brano si intitola Fog, loro sono Isis Electro Blue Boys, etichetta sempre SS Record della California Orlando, scovati su Free Music Archive. Buon ascolto! Buon ascolto! We'll be right back. another war. Un'altra radio Roma. rubber is the rubber. I got a lover, lover. I got a lover, lover. I got a lover, lover. I got a lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover. Ricordo a tutti voi che alla fine di questo podcast avremo un artista che ha prestato la sua voce per un nostro jingle. Allora, che cosa ne pensate di questi brani che stiamo ascoltando? E direi di andare avanti su queste sonorità. Loro sono gli Slane, vengono dall'India, li troviamo su Jamendo e il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Behind the Line of Love. Poi andremo ad ascoltare gli Orlando con il brano Assalto, sono di Martina Franca, li trovate su Jamendo e ci presentano un rock metal progressive. Successivamente gli Incursion con il brano Di Nuovo, sono di Grosseto, ci presentano un metal e l'archivio da cui li ho tratti è Dogmazy. A voi auguro ancora una volta buon ascolto su un'altra radio. Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, sia mia e lui, dietro non c'è... Un fiorino! Si paga? Un fiorino! Oh, fermi, oh! Scusi, sacco, doganiere. Vabbè, allora. Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Stavamo qua e è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno, adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Che è ricaduto il sacco, no, è stato un fiorino. Ma siamo quelli là. Andiamo, vai. Grazie. Hey! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sto uscendo, no? Un fiorino. Che uno entra e esce, cosa sbaglio sempre un fiorino. Siamo due, tre, sempre. Grazie, arrivederci. Oh, la cassa! La, la. Mamma mia, mo' per... Vada, vada. Vieni. Senta. Ehi! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Ehi! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? We'll be right back. corso già bevuto. La vecchia plastica ormai non è più legno, non è più rosso, sei lontano dal paese, da tutti quanti mai, da tutti quanti. Questo 38esimo podcast della banda Denartra Radio Roma sta giungendo al termine, ma abbiamo il tempo ancora di due brani. Se avete ancora pazienza dopo questi brani, avrete finalmente la possibilità di ascoltare un ospite veramente gradito qui su questi microfoni. Ha prestato la sua voce per un giro. Quindi prima andremo ad ascoltare i Jackal Wolf con Night Light, sono un gruppo sudafricano, suonano dal Sudafrica e ci presentano un rock alternativo. Successivamente andremo a sentire i Mountain Mirrors, sono degli Stati Uniti e ci propongono un rock veramente interessante. Il brano è The Immortal Dead. Un'altra radio. Roma. No, io voglio una spiegazione. Io voglio una spiegazione. È mai possibile che a me mi stanno succedendo in meglio disgrazie? Io non posso campare più, guarda, non posso campare più. Ma perché proprio con me, tuo figlio, proprio con me? Con me che venga una famiglia religiosissima. Io tengo a mia zia che organizzava i pellegrinaggi per padre Pio. E tu mi fai questo a me, mi fa. No, io già avevo una spiegazione. Io a casa non me ne vado se non ho una spiegazione. Uè. No, mica stavo gridando che... No, ho alzato un po' la voce, ma data la lontananza, forse chi si sta facendo qualche altra cosa. Sì, ho chiamato che... ho chiamato, volevo sapere com'è su fatti, che a me mi stanno succedendo disgrazie a presto, guarda. Io non posso campare più. Io bestemmiavo. No, guarda, ti sbagli che... Non ho mai bestemmiato. E quando è che ho bestemmiato? Ah, mi ricordo. Sì, mi ricordo. No, non sono stati. Sì, mi ricordo, ma non sono stati. No, è stato l'amico mio, guarda. Stavamo tutti e due. E lo so, tu stai in ogni luogo, ma si vede che si vede spalle e non ne visi. Ma no, non sono stati. Ma ti giuro, non sono stati. No, è stato lui, guarda. E chi lo tiene sto vizio ogni tanto che si mette... Dice, ce l'ha zitto pure, sta zitto che io sono figlio con me. No, è stato lui, guarda. E mettiamo pure che fosse stato, niente di meno, tu ti scatene questa maniera. Io non posso campare più, guarda. Sì, ma tu in fondo sai quanto ti stimo, no? Vengo a messa tutte le domeniche. Ogni domenica sono in chiesa. E vabbè, aggiunto a avere un film sporco, ma oggigiorno i film sono tutti quanti così. Non ne hai visto però che appena sono uscito dal cinema, 2000 lire a chi lo povero, 2000 lire a un povero, mi pare a me che... Aggiunto subito a mio padre. Chi non mio padre? Oh, papà, però tu mi controlla allora, scusa. Non lo so. E mi sta in cuore proprio. Sì, ma guarda un poco pure all'altra, ci facendo. Papà, che ce l'hai proprio con me, su fatto. Sì, ma guarda pure all'altra, non guardare solo a me. Sì, ma in fondo nessuno è perfetto, ognuno tiene cose. Non lo so, tu sei perfettissimo. Se no, stavo parlando di lui, qua non ce l'avevo con te. No, a parte il fatto che tu pure hai fatto i sbagli tuoi, No, lascia stare che hai sbagliato pure tu, No, certe cose lasciati pregare, se ti dico che hai sbagliato. È capitato certe cose. No, parlo. No, lasciati pregare, era un modo di dire, subito ti metti in posa, no, non so. Ma no, è il tuo discorso. Sì. No, parlo. Sì, era il tuo discorso, non c'è. No, hai sbagliato pure tu, certe cose le hai sbagliate. Hai fatto tutte cose buone tu. Tu non ne hai mai sbagliato. Cioè, secondo te l'ippopotamo è bello? Le combinate che la maniera l'ippopotamo. Lascia stare. Ma ti pare bello che quella sta sempre in dall'acqua e che la maniera combinata. Ma no, signor. Ma è logico, grazie a me. Poi bestemmi l'ippopotamo, poi malamente, vero? Ma se tu combini che la maniera. No, mica solo l'ippopotamo. No, tu pure a fuoco hai sbagliato. No, tu a fuoco l'hai fatta a metà. E ti hai scontato e ci fai zampetta a fuoco. Ma perché ti cammino un po' la panza a fuoco, scusa? Ma no, è scomodo, non da niente. Ma no, è scomodo a cammino un po' la panza. E si lamentano, giustamente si lamentano. No, pure l'elefante. Sì, l'elefante l'ha già sentito proprio, che si lamentava. Si lamentava, non lo so. No, riceveva, guarda a me come mi ha combinato. Ho fatto che ci ha messo quella cosa a Nanza all'elefante. Sì, ma perché ci hai messo quello cosa annanza all'elefante? Su fatto è che su. Bene fatto. Volevo fosse il pento, volevo fare. Fai fatto prima gli esperimenti a parte, scusa. Ma no, per piacere. Ma è logico. Ma se tu sei su nell'elefante, lo fai sorprendere. Cioè, ti viene l'elefante che sorprende qua, no? E no, si fanno a parte, sì. A fretta. Chi dà a te fa tutte cose in da 6 ore, scusa. No, tu ti vivi l'eternità, anzi, con calma. E facevi cose per me. No. Secondo me voluto fare un poco spaccone. Non lo so, qualche scommessa di nivo, qualcosa. Ma non so cose che si fanno in da 6 ore, guarda. Ma lascia. Vabbè, chi sono animali. Che significa sono animali? No, che poi pure gli uomini si lamentano, eh? Sì, l'ha già sentito proprio i casi, lo lamentavano. E dicevano, però io pure ha sbagliato. E te tu non ne senti perché chi ne parlano tutto a così, e si lamentano. Non lo so, dicono che tu hai fatto tutte cose a favore di loro ricco. Quel povero è destinato a gli all'inferno. Oh, povero, ha da fare per forza peccato. Ho fatto i comandamenti. Non desiderare la roba d'altri. Ma passano ricca all'emveria. Che te ne ha desiderato il me, scusa? Oh, è sempre un uosto, no? Ma lascia stare, su cose. Non desiderare la donna d'altri. Tu la conosci a mia moglie, no? No, siamo d'accordo. Siamo d'accordo che sei un fatto mio. Sì, me lo dovevo guardare bene prima io. Siamo d'accordo, sì. Uè, no, non fornicare. Che significa non fornicare? Tu sai che io vado oggi fornicato senza sapere? No, non lo so. No, io pensavo ai formiche, lo altro. Pensavo ai formiche. È venuto un periodo che camminava così, sai? Me l'ha già visto brutto, lascia stare. Ma non lo so. Io dicevo, forse chi si ci tiene particolarmente per formiche. Ma che ne saci? Sì, ma perché hai scritto non fornicare, scusa? Ma tu lo spazio ottenivo, no? E le tavole erano grosse. Invece non fornicare, scrivo, non fate quelle... Cioè, non fate quelle cose... Non fate quelle cose sporche, ca... così capiamo tutto quanto, però. E tu mi stai scrivendo non fornicare. Ma chi è che capisce non fornicare, scusa? È difficile. No, io sono calmo, guarda. No, io sono calmissimo. No, casi ci sono, casi stai nervosendo, sei proprio tu, E io ti vedo tutto arraggiato, tutto... sei tutto innervosito. L'età. Lascia sta, che tu pure quando eri giovane era così, Subito ti innervosi. Come no? Che la paura vaglione, per se mangiare una mela, ma ci si succede lì, e Dio, ci si... Allora siamo calmi tutti quanti, anzi ero venuto qua per parlarti proprio di un'altra cosa, io tu volevo parlare proprio di una tua fatica. Che Dio, uno sta parlando, chi si sente? Sì, agita, che Dio, ma... No, che Dio, mica è una bestemmica. Ma no, la agita in 12 cose. No, io non tengo niente a... No, io sono buono così. No, me ne vado più. No, io non tengo niente a me lamentare. No, sì, sono buono così. Because the dawn comes to visit me at night, still and start to claim my the eyes. Forsaken vultures in fractured black skies. Unfeeling angels on power-tripped planes. Half-eaten mind rats drain rivers of pain. Crawl back in your hole if you can't breathe this evil air. Questo podcast è stato all'insegna di Massimo Troisi, per le tante risate, per la spensieratezza che ci ha regalato in quest'anno, a volte poco considerato, oggi forse anche rivalutato. Abbiamo voluto ricordare alcuni suoi sketch che a noi hanno fatto sempre ridere. Vi saluto, quindi do appuntamento a tutti voi al mio prossimo lavoro, quindi lo troverete solo in esclusiva sulla radio di nicchia, Denartra Radio Roma. Vi do appuntamento al 21 di giugno alle ore 9 su 1000 Mics per la nostra quarta diretta e vi abbraccio regalandovi l'ultimo jingle, appunto Denartra Radio Roma. Ringraziamo Remo Remotti per averci prestato la sua voce. Grazie maestro, un abbraccio a tutti voi. Ragazzi, nar tra Radio Roma è tornata. Questa è la mia trasmissione. Ragazzi, ok, questa è la mia trasmissione. Ragazzi, ok, questa è la mia trasmissione. Ragazzi, c'è tempo per noi, né nessuno. Ma proprio nessuno. C'è tempo, non è. Bastardi. Buonanotte a tutti. E buonanotte a tutti. Buonanotte a Gattolino. Buonanotte a DJ Bruttolo. Buonanotte DJ Coco. Buonanotte a nessuno. Buonanotte a tutti. E buonanotte al cazzo.